è tutto trasparente, se va sul sito di matteorenzi.it troverà l'elenco dei sottoscrittori, no? Sì. Quelli che alimentano il camper, che danno benzina al camper, ma ci sono nomi e cognomi, nomi e cognomi, dall'altra parte no però, dall'altra parte non c'è niente, dall'altra parte, e magari usano tutta la struttura del partito al servizio. Sa quanti dipendenti ha il PD solo a Roma? Quanti? 200 persone. Queste stanno lavorando pancia a terra per uno dei candidati. Bersani. Se dovessimo conteggiare quanto costano al giorno, altro che 2 milioni di euro, cioè li spendono in un giorno. Fassina ha detto, ci avete copiato parte del programma, quello sugli asili nido e sì. Quello non so su no, cosa. Beh, Fassina, l'asilo nido, non so se l'ha visto quando c'è andato una volta, forse, spero, oppure ci ha portato i suoi figli, se ce li ha, non lo so. Con la differenza che noi gli asili nidi li abbiamo fatti nelle nostre città, e li abbiamo fatti bene, talmente bene che intendiamo esportare il modello di Piacenza, di Reggio Emilia, di Firenze, per tutto il paese. Ma l'avete copiato o no? Perché se ha detto guardi, il programma è uguale a quello del PD. Il PD l'ha copiato da noi. Noi siamo del PD, volevo dare una notizia Fassina, che noi siamo del PD. Ah, è il PD che ha preso, no, il PD nazionale. Abbiamo contribuito a costruirlo noi quel programma lì. Fassina forse non c'era, ma noi sindaci abbiamo contribuito in maniera decisiva a costruire il programma del PD, dal quale noi ovviamente oggi attingiamo perché siamo del PD. E sperate di vincere, questo sì. Siamo ragionevolmente sicuri. Ragionevolmente sicuri di vincere. È la sicumera, eh!